E scoppia in lacrime. In calo gli incidenti in moto, fra il 2006 e il 2010 sono diminuiti di quasi il 20%. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano la pagina economica, fra notizie positive e notizie meno positive. Le borse oggi vanno bene, naturalmente questa è una delle notizie positive, lo sentiremo fra un attimo. In calo anche lo spread, male invece i dati che arrivano sui nostri stipendi. Partiamo dunque da qui. L'anno del primo governo Craxi, della scomparsa di Emanuela Orlandi, o, se la memoria vi soccorre meglio in questo modo, di vita spericolata di Vasco Rossi a Sanremo e del primo vacanze di Natale. Bisogna tornare al 1983 per vedere una crescita delle retribuzioni bassa come quella che si è avuta in marzo. Un più 1,2% su base annua, un incremento che così basso non si registrava appunto da almeno 29 anni, almeno perché le serie storiche sono ricostruite solo dall'anno precedente. A pesare, lo stop agli stipendi dei dipendenti della pubblica amministrazione fermi, ma anche la crescita dell'1,7% appena per i dipendenti del settore privato. Non è la sola cattiva notizia che arriva dall'Istat oggi, dopo il già pesante dato diffuso ieri sulla fiducia dei consumatori, scesa a poco più di 89 punti. A preoccupare anche il raffronto tra questa crescita dei salari e il livello di inflazione, che su base annua si attesta al più 3,3%, la differenza ormai di 2,1 punti percentuali, la più alta dall'agosto del 95. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E commenti sui dati, sui redditi arrivano dal convegno Confindustria in corso a Roma. In diretta con noi Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Troppo alta la pressione fiscale sui redditi, serve un patto per tagliare le tasse. CGIL, CISL e UIL si ritrovano sulla stessa linea. Nel commentare durante un convegno organizzato da Confindustria sulla sicurezza sul lavoro i dati dell'Istat sulle retribuzioni. Le condizioni dei lavoratori continuano a peggiorare, dice Susanna Camusso. Sentiamola. Sul potere d'acquisto dei lavoratori pesa l'aumento della tassazione del cosiddetto fiscal drag, che ovviamente in questi anni ha man mano accumulato ulteriore effetto di tassazione sulle retribuzioni. E salari fermi sono lo specchio della situazione del paese, avverte il leader della CISL Bonanni, che indica così la sua ricetta per risollevarli. Sentiamo. Bisogna fare un'operazione sulle tasse al contrario, cioè restituire ai lavoratori e pensionati un po' di soldi, altrimenti i consumi non vanno e la recessione sarà ancora più forte. Quindi bisogna fare un'operazione che alleggerisca il debito, secondo me, vendendo parti del demanio pubblico, e dall'altra facendo un'operazione sulle tasse. Questo deve fare il governo. Divergenza invece sulla prospettiva di uno sciopero sulle questioni legate a crescita, fisco e lavoro, che rimane ferma per la CGIL, mentre trova contrari gli altri due sindacati. Mentre la leader di Confindustria Marcegaglia ribadisce che occorre modificare la riforma del mercato del lavoro per rendere meno rigida la flessibilità in ingresso, altrimenti si rischia la distruzione di posti di lavoro. Intanto sul tema della sicurezza sul lavoro arriva l'appello del capo dello Stato Napolitano affinché tutti, istituzioni, imprese e forze sociali, si impegnino ad assumere le misure necessarie per assicurare il rispetto delle norme a garanzia dell'integrità fisica dei lavoratori. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. L'Italia è in una fase di consolidamento dei conti pubblici e non c'è ancora la disponibilità per la riduzione delle tasse, lo ha detto il vice ministro dell'economia Vittorio Grilli in risposta all'allarme della Corte dei Conti sull'eccessiva pressione fiscale. Grilli ha ricordato come crescita e rigore siano due pilastri fondamentali di una stessa cosa, l'Italia che deve tornare a crescere. L'andamento dello spread non preoccupa il governo, ha detto ancora Grilli, che però è consapevole che ci sono molte turbulenze sui mercati per diverse ragioni. E allora sentiamo i mercati turbolenti oggi come vanno. In diretta con noi Deborah Rosciani. Eh sì, dopo la durissima prova di ieri per i mercati europei in particolar modo, oggi c'è un rimbalzo poco più che tecnico, però in questo momento io oserei definirlo anche fiacco, perché erano un po' più brillanti circa un'ora fa le borse europee e adesso invece stanno già rallentando il loro recupero. In ogni caso sono aiutate appunto le borse europee anche dalla buona domanda sulle aste dei titoli di Stato italiani e spagnoli che si sono svolte questa mattina, che comunque hanno registrato rendimenti in deciso aumento, e quindi questo è un altro tema al centro delle preoccupazioni generali. Quali aste in Italia ci sono state? Il Tesoro ha collocato CTZ per 2 miliardi e mezzo di euro, il rendimento medio è salito per quello che riguarda questi titoli. titoli al 3,35% dal 2,35% del collocamento di marzo, quindi un punto secco di aumento. Il Tesoro ha venduto anche 943 milioni di euro di BTP indicizzati all'inflazione e anche in questo caso rendimenti in forte aumento per la scadenza 2017 al 3,88%, per la scadenza 2019 il tasso è salito al 4,32%. Ieri Milano ha perso sul fronte azionario il 3,83%, oggi recupera l'1,68%, molto più modesto il rialzo delle altre piazze europee. STM miglior titolo di Milano, lo spread fra BTP e Bund stamattina ha ritoccato i 412 punti base, è sceso intorno ai 400, adesso rimane sempre al di sopra di questa soglia. Per ora è tutto. E grazie a Deborah Rosciani. Dietro ai cali di borsa di ieri, come vi abbiamo abbondantemente raccontato, molte ragioni, fra cui l'ipotesi che il socialista Hollande diventi il prossimo presidente francese e anche la crisi di governo in Olanda. Allora facciamo il punto su questi due aspetti. Bruxelles è preoccupata per i cambiamenti che potrebbero arrivare dalla Francia. Sentiamo. Le elezioni presidenziali francesi sono sulla bocca di tutti a Bruxelles. Da un lato il successo ottenuto dal leader del fronte nazionale Marine Le Pen fa temere un'ondata di populismo euroscettico anche in altri paesi della zona euro. Dall'altro ci si interroga sulla politica economica francese e se la vittoria finale dovesse andare al socialista François Hollande. L'austerità verrà abbandonata come molti temono? Quanto l'uomo politico francese vorrà rimettere in discussione la gestione comunitaria della crisi? Alla Commissione c'è l'impressione e la speranza che la strategia del candidato Hollande sarà diversa dalla politica del presidente Hollande. Più accomodante, meno controversa. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E oggi il premier olandese Mark Rutte illustrerà in Parlamento le ragioni delle dimissioni e dei cali di borsa di ieri. La crisi politica esplosa ieri in Olanda con le dimissioni del premier liberale Mark Rutte potrebbe già oggi arrivare a una svolta. Tra un'ora il primo ministro andrà in Parlamento per cercare di ottenere il sostegno dell'opposizione e approvare le misure anti-deficit da 16 miliardi di euro prima di andare alle elezioni anticipate. Proprio sul pacchetto di tagli necessario per riportare il deficit previsto al 4,6% del PIL entro il 3% richiesto dall'Unione Europea, c'era stato lo strappo del populista ed euroscettico Geert Wilders, che ha ritirato l'appoggio esterno all'esecutivo di minoranza. Un paradosso per la virtuosa Olanda, da sempre sostenitrice della linea del rigore fiscale nell'eurozona portata avanti dalla Germania. Il ministro delle Finanze De Jager ha assicurato che il paese manterrà la solidità finanziaria e la disciplina di bilancio di sempre. La parola tocca dunque al Parlamento, in attesa del voto anticipato previsto per giugno o settembre. Intanto oggi l'Olanda ha collocato titoli di Stato a 2,25 anni per 2 miliardi di euro, registrando un buon andamento dei tassi. Eliana Di Caro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Senato il voto sul decreto fiscale, applausi e fischi per Rosi Mauro. In diretta Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così, in questo momento sta parlando Rosi Mauro, sta spiegando le sue ragioni, comunque contestazioni, fischi e qualche applauso nell'aula di Palazzo Madama, proprio perché Rosi Mauro è tornata a presiedere l'emiciclo, ma al suo ingresso dai banchi dell'Italia dei Valori sono arrivati alcuni bu e la Mauro si è lasciata scappare alcune lacrime. Poi ha ritrovato la calma e ha chiesto se qualcuno voleva intervenire. A quel punto il capogruppo dell'Italia dei Valori al Senato, Felice Belisario, ha chiesto le sue dimissioni e ha accusato la Mauro di far parte della casta barbicata alla poltrona. Promette inoltre di mettere in atto l'IDV forme di protesta ogni qualvolta la Mauro presiederà lo scranno più alto di Palazzo Madama. E lo stesso fa Luigi Zanda del PD, che chiede anche lui le dimissioni, anche perché non è più parte del gruppo della Lega dopo l'espulsione. Difende la Mauro Luciana Sbarbati UDC, non si possono chiedere le dimissioni a una persona che non è indagato, tutto ciò nel giorno in cui il governo ottiene la fiducia sul decreto semplificazioni fiscali con 228 sì, 29 no e 2 astenuti. Invece sul fronte politico da segnalare che Silvio Berlusconi sta riunendo i suoi, è convinto che la sinistra vuole andare al voto ad ottobre e promette un cambio di nome del partito a breve. Per il momento qui da Roma è tutto, per studio. grazie ad Elisabetta Fiorito. Puntuali come ogni anno sono arrivate le polemiche per le aperture dei negozi in occasione di 25 aprile e 1 maggio. Il mondo del commercio, grande distribuzione in primis, si prepara ad alzare le saracinesche. I sindacati rispondono con scioperi unitari proclamati in molti territori, Milano in testa, per impedire le aperture. In molte piazze italiane CGIL e CISL e UIL distribuiscono volantini per invitare i consumatori a non comprare in quei giorni. L'appello ai consumatori ci pare il minimo, dice Maria Grazia Gabrielli di Filcams CGIL. L'ha intervistata Maria Luisa Pezzali. È stato sempre un problema, l'abbiamo sempre vissuto come un problema anche negli anni precedenti. È ovvio che le liberalizzazioni amplificano ulteriormente. Stiamo tentando di costruire appelli affinché appunto almeno si salvino le festività fino ad arrivare all'astensione dal lavoro fino alla proclamazione in molte città dello sciopero. Con il volantinaggio invitate allo sciopero anche i consumatori. Un boicottaggio? Possiamo utilizzare, leggere le parole e dargli un'accezione diversa. Quello che stiamo facendo è una sensibilizzazione. Applichiamo una legge dello Stato, replica il presidente di Federdistribuzione Giovanni Cobolli Gigli, sempre al microfono di Maria Luisa Pezzali. Abbiamo apprezzato questa legge, che è legge dello Stato. Questa legge ci dà libertà di decisione. Le scelte che facciamo sono rivolte al servizio che dobbiamo dare alla clientela, quindi è cambiata la situazione rispetto agli anni precedenti. Non vedo nulla di particolarmente scandaloso nell'apertura dei negozi quando si pensa che sono aperti tutta un'altra serie di servizi ai cittadini, i ristoranti, i musei, gli outlet fuori dalle città sono aperti tutte le festività. E prima di ascoltare le informazioni sul traffico, una buona notizia per chi si sposta in auto alla vigilia dei ponti del 25 aprile e 1 maggio. Per la prima volta sono stati decisi ritocchi al ribasso sui prezzi della benzina. Tagliano i prezzi IP, Tamoil e Total Erg. Crescita troppo lenta per gli stipendi, non andava così male almeno dall'83. Rimbalzano le borse europee e per la prima volta ribassi sui prezzi della benzina. Se non ci saranno modifiche alla riforma del mercato del lavoro, fa sapere la Marcegaglia, rischiamo la distruzione di posti. Rosy Mauro torna in aula al Senato, applausi e fischi e lei scoppia in lacrime. Inflessione gli incidenti stradali nei quali è stata coinvolta una moto o un motorino. Anche questa è una buona notizia. Fra il 2006 e il 2010 gli incidenti stradali di questo tipo sono diminuiti del 18,6%. Anche il numero dei morti risulta in calo, meno 23%. Sono poco più di 70.000, secondo l'Istat, quelli nei quali ci sono stati feriti o vittime. Un terzo degli incidenti vede coinvolto un veicolo a due ruote. Ancora intercettazioni sulle serate di Arcore pubblicate su Repubblica.it. Qui si sente la conversazione della consigliera regionale lombarda del PDL Nicole Minetti, che istruisce una ragazza invitata anche lei a casa di Berlusconi. Chips? Ciao. Dalla voce deduco tu sia in treno. Sì, c'ho un omicidiale. Ho sentito adesso The Boss of the Boss e gli ho detto, oh, allora stasera, gli ho detto, guarda che porto una mia amica, mi fa, ottimo, gli ho detto, guarda che è la seconda laurea, gli ho detto, ti dà del filo da torcere, ottimo, si vede che non poteva parlare, grazie, stasera, ciao. Amica, allora, lì si mangia pasta asciutta ai tre colori, quindi scegli tra in bianco, pomodoro e al pesto, poi di solito... tutte cose molto molto casaresche, cioè anche aspettare le crudite e la nouvelle cuisine. No, ma infatti ti volevo un attimo briffare sulla cosa, nel senso, giurami che non ti prende male, nel senso, cioè, ne vedi di ogni, cioè, te ti fai i cazzi tuoi, io mi faccio i cazzi miei, per amore del cielo, però ne vedi di ogni. E delle intercettazioni che stanno uscendo in questi giorni ha parlato questa mattina a 24 mattino l'onorevole Gaetano Pecorella, ex avvocato di Berlusconi. Sentiamolo al microfono di Alessandro Milan. Certamente sono intercettazioni che da un lato danno l'impressione sgradevole di entrare nella camera da letto di qualcuno, cosa che credo a nessuno di noi faccia piacere. Dall'altra parte certo danno un quadro di una situazione anche di ansia e di preoccupazione di Berlusconi, questo non c'è dubbio. Direi che questo è il senso di un'aggressione che oramai dura da anni, ma nello stesso tempo è anche un dato obiettivo, insomma le conversazioni, per quello che vale, che noi trattiamo di conversazioni tra terzi, dove ovviamente il presidente Berlusconi non c'è. E torniamo sul dissequestro della nave Enrico Jevoli per 4 mesi nelle mani dei pirati somali. Non è stato pagato alcun riscatto e la liberazione è il frutto di un'ampia azione diplomatica, ha fatto sapere il ministro degli esteri Terzi. Il commento di Alberto Negri. Lo stretto che collega il Golfo di Aden al Mar Rosso, dove è stata sequestrata e liberata poi la motonave italiana Jevoli, si chiama Bab el Mandeb, che significa porta delle lacrime. In questo tratto di mare l'anno scorso ci furono un centinaio di attacchi. Grazie al pattugliamento della Marina Militare Italiana Internazionale, i sequestri quest'anno si sono dimezzati. Anche la diplomazia ha fatto la sua parte nella liberazione della Jevoli, trattando con le cosiddette autorità somale, un paese dove da 20 anni non esiste in realtà nessun governo. Quanto costa la pirateria? Circa 12 miliardi di dollari l'anno, riscatti compresi, che nel caso della Jevoli sembra non sia stato pagato, al contrario di quanto avvenne per altre 2 navi italiane catturate nel Mar Rosso, la Rosalia Amato e la Savina Caylin. Ma una delle voci più incidenti, quasi 3 miliardi di dollari, è il carburante. Per sfuggire ai sequestri occorre andare più veloci. La velocità è il modo più sicuro per eludere i pirati, quindi, cari comandanti, pigiate sull'acceleratore e fiate i motori in attesa che la comunità internazionale si dia nuove e più certe regole per combattere la pirateria, un fenomeno che da 500 anni infesta la Porta delle Lacrime. E di questo tema torneremo a parlare fra pochissimo in Italia in Controluce, in onda alle 13.30. Accordo fatto ora davvero ufficialmente fra il governo italiano e i familiari dei 2 pescatori uccisi nell'incidente che ha coinvolto i 2 marò ancora detenuti in Kerala, in India. Roma ha offerto come donazione 10 milioni di rupie, quasi 150 mila euro a ciascuna famiglia. Perdoniamo i nostri fratelli italiani, avrebbero detto i familiari delle 2 vittime. Al momento della ratifica del compromesso, le famiglie dovrebbero ritirarsi dai procedimenti penali nei quali compaiono come parte lesa. È imminente la decisione del vicariato di Roma di trasferire la salma di Renatino De Pedis, il boss della banda della Magliana, sepolto come un benefattore nella Basilica di Santa Pollinare. Valentina Furlanetto ne ha parlato con Angela Camuso, autrice del libro Mai ci fu pietà, proprio sulla banda della Magliana e sul ruolo del boss De Pedis nel rapimento Orlandi. Una decisione che vuole in qualche modo smorzare le polemiche annose su questa scandalosa sepoltura, a qualche settimana di distanza da una dichiarazione pesante da parte degli inquirenti che stanno indagando sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, il fatto che sia stato detto pubblicamente che in Vaticano qualcuno sa. L'ipotesi investigativa è che Emanuela Orlandi sia stata rapita per assecondare i capricci sessuali di qualche alto prelato, che sia morta probabilmente per un incidente e che poi questa morte sia stata usata dalla banda della Magliana come arma di ricatto nei confronti del Vaticano per aver restituiti i propri capitali investiti nell'Istituto di Opere della Religione. Ecco, questa è la connessione. Adesso il vero mistero è capire per quale motivo il Vaticano ha concesso diciamo che fosse sepolto il capo di una banda di assassini in una basilica accanto ai personaggi più illustri della nostra nazione. Si conclude oggi la consultazione online del Ministero della Pubblica Istruzione sul valore legale del titolo di studio. Oltre 31.000 le registrazioni, oltre 20.000 le risposte complete arrivate. E il risultato è stato netto. Tra il 70 e l'80% di chi ha scritto ha detto no all'abolizione del valore legale della laurea. Ne abbiamo parlato con Luigi Fiorentino, capo di gabinetto del MIUR. Per una persona come me che diciamo guarda abbastanza ai metodi di partecipazione alla vita democratica, credo che il primo profilo di cui tutti noi ci dobbiamo compiacere è l'alta partecipazione. Vi stupisce però che il 70% circa delle persone che hanno partecipato a questo sondaggio, comunque insomma, vi hanno scritto, sia ancora per conservare il valore del pezzo di carta? Insomma, la dice lunga anche sul nostro paese? Assolutamente no. no, il titolo di studio nel nostro paese ha sempre avuto un valore importante, un valore diciamo di mobilità sociale. Ora certo si tratta di andare oltre, di far capire alla gente appunto che il titolo di studio è un titolo a cui bisogna guardare anche in profondità, diciamo, il valore del titolo di studio, però che il titolo di studio nel nostro paese avesse un significato anche simbolico, anche sociale, questo diciamo anche altre analisi lo hanno detto. Quindi non vi ha stupito, però insomma forse questo governo si aspettava o auspicava una risposta diversa del paese? No, io questo non lo dico, perché se fosse stato così il governo avrebbe già deciso. Altri 4 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, cosiddetti DASPO, sono stati firmati questa mattina dal questore di Genova per altrettanti tifosi responsabili dell'interruzione di Genoa-Siena domenica. È salito così a 15 il numero dei DASPO inflitti ai tifosi genoani appunto dopo i disordini di domenica. Intanto stasera si torna in campo, da un lato gli anticipi del campionato di Serie A, Atalanta-Chievo e Cagliari-Catania, dall'altro il Barcellona che incontra il Chelsea. O entra nella leggenda o imbocca il viale del tramonto. È una sensazione strana per il popolo catalano sostenere un Barca in barca, un Barcellona reduce da 2 sconfitte consecutive, quella contro il Chelsea in Champions e quella contro il Real in Liga. 2 capitomboli pesanti che possono portare a qualcosa di peggio, all'inizio del declino o a un repentino viale del tramonto. Per questo stasera contro il Chelsea il Barcellona si gioca tutto. Rovesciare l'1-0 dell'andata non sarà facile perché è il risultato peggiore. Basta un gol degli inglesi per complicare tutto. Di Matteo, l'allenatore italiano del Chelsea, riproporrà lo schema più italiano del mondo: primo non prenderle e poi colpire in contropiede. C'è riuscito a Londra, figurarsi se non lo fa al Camp Nou, dove basta un semplice 0-0 per sfangarla. Ma la squadra di Guardiola ha tutto per rovesciare il risultato dell'andata: a Messi, pallone d'oro e capocannoniere, ha soprattutto una macchina da guerra che diventa inarrestabile quando si mette in moto, e poi ha un obiettivo: raggiungere la terza finale in 4 anni e magari giocarsela con Real Madrid. Insomma, o di qua o di là, o la gloria o il crollo totale. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Napoli torna a capitale del fumetto con la 14ª edizione di Comic-Con, il salone internazionale del settore, da sabato 28 al 1 maggio. Il direttore di Comic-Con, Claudio Curcio, al microfono di Paolo Panceri. La 14ª edizione di Napoli Comic-Con esplorerà il rapporto tra fumetto e letteratura. Sono i 40 anni dalla morte di Nobuzati, per cui avremo una grossa mostra dedicata al rapporto tra queste due arti, con in mostra anche originali di poema a fumetti, proprio di Buzzati. Poi ci sono il cinquantennale della nascita di Diabolik e i 30 anni della nascita di Marty Mister, che avranno anche 2 belle mostre, ma tanti saranno gli ospiti internazionali da tutto il mondo. E insieme al Comic Con avremo anche la sezione Game Con, che è dedicata al mondo del gioco e del videogioco. E questo notiziario è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleoni. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.